avevo controllato un attimino la gola, ho controllato la gola, c'avevo un afte, ok? Una macchia. E mi ha detto, e ha prescritto questa medicina. Io questa medicina non l'ho comprata. Non l'ho comprata. Perché ero, cioè, ho cazzo lo spray per la gola, ho colluttorio, di tutto e di più, medicine, tutto. Questa cosa è sparito. Non ho detto, tra me e me, non ho detto niente, mica mi ha detto niente lui, sono stato io, sono andato alla farmacia e ho detto, ascolta, non mi puoi fare il tampone. No, lo sa mezzo Sassari. E poi appunto ho detto, comunque se vuoi ti metto in mezzo. Ho detto, guarda, ho il tempo di andare dal medico, gli ho detto, e poi torno. Infatti così ho fatto. E se quello risultato è una cosa mia, poi se tu non lo vuoi fare, tanto non è che, cioè, non è che ci cambia la vita, cioè a te non ti cambia la vita, però è una cosa tua personale. Io l'ho fatto, sono risultato positivo, adesso ho potuto rimanere a casa, perché se a me mi trovano in giro, adesso ora come ora, mi cani l'uguru, capito? Ma secondo te io sono convinto, gioco. Non dimmi che ci discorsi, non attacchiamo la gianna. Fregatene, che quando Antonio, ricordate sempre una cosa, quando Antonio parla, vuol dire che sa. Se no Antonio non parla così, non ti preoccupare. Io sono una persona molto intelligente, più di quanto si pensa, non so gummacco, non so go. Punto di discorso. Io non so come spiegarglielo, sei libero di fare ciò che vuoi, non è che. Però se uno dei sintomi può essere anche, io sto pensando che c'è abbiamo avuto un classico, come si dice, una classica influenza, ok, mettiamola così. Però siccome ho visto il periodo che non è bello, uno dei migliori, allora ho approfondito e niente, vabbè, comunque cara, riprendi. Va bene, lasciamo perdere, non ha giri a fare questa cosa, comunque già fregatene che io già risolvo le cose, e secondo me è anche meglio che sia andata così, è meglio che sia andata a casa, sono usato i nonchi, cazzo, tremandomi nel letto, non intende, tremandomi nel letto, a 38, 37, 38 di febbre qua dentro, io sono andato a lungo, sono andato, perché se io facevo quello dell'ATS di Ramarazzucci che l'accompagna, io qua non mangiavo, non portavo i soldi a casa, ed era stato cazzi miei, erano stati, capito? Erano stati veramente cazzi miei, e lo posso dire apertamente, se non arrivo di una casa, no, che sono cavoli miei, ma veramente, chi mi porta da mangiare a me? Chi me lo porta a mangiare? Quello è un altro discorso, vabbè, il discorso mio dal tuo è diverso, perché io mia madre che ha tante patologie e sono stato costretto, tu non avendo nessuno lì che ha patologia hai fatto così come ti ha detto il medico, purtroppo è così, è un casino, siamo nella merda, non sei solo, quindi non bei ieri nella merda proprio, nella merda totale. A me stare 10 giorni a casa qua, che cosa cavolo avrei fatto? E adesso messo pochi di Napuru. Dimmelo tu cosa avrei fatto io qua. Cioè, no, non se ne parla. Sono stato un giorno, 2 giorni qua a casa, poi mi è passato tutto a posto, e grazie a Dio sto bene, non ho niente. No, lui. Cioè, mica la situazione qua era grave, a me no, non me ne importa né di cosa mangiare, no. Io non credo di andare a lavorare se voglio ordinare. No, non so se rendo l'idea. Cioè, il problema è questo, è un problema grave. Fino adesso è così, fino adesso. A me non me ne portano, non mi portano niente qua. Io devo andare a lavorare per portare i soldi. Sono che arrabbiate. Allora, sai cos'è il discorso? Anch'io ti dico un'altra cosa. Sto riparando un telefono vecchio, però una roba importante, e ho detto passa così così, ho voglio il display non originale. Sì, va bene, il prezzo è quello, ok. Ho fatto il prezzo, tutto quanto, arriva il display difettoso. Adesso questo display me lo pongo la spedizione io. Comunque la faccio corta, tra una cosa e l'altra, poi 100 euro di tasca mia, e ancora di là non me ne sono rientrati. Sono casini. Bisogna ragionare con la testa in questo periodo. Se proprio non è necessario ripidare, io non ci vado. Non ci vado perché cazzo qua, veramente, se proprio non è all'ultimo viso gumoccio in terra, preferisco non andare da nessuna parte. Perché per me è un guaio, per me, per io, perché io, cioè, devo, cioè, qua sono problemi seri, sono, capito? Ok, dai, io vado un attimino che devo fare roba, ci sentiamo dopo, cioè, cerca di capirmi cosa ti voglio dire, cioè, se tu mi hai capito, cerca di capirmi, cioè, in questo periodo, come siamo la posizione adesso, cioè, se io qua, sono cavoli amari. Fatto, vedi tu, io comunque sono stato costretto a fare tutto ciò, e purtroppo è così, non vorrei che mia madre poi si ammalasse ancora di più, già è malata con la rete ancora di più, vabbè dai, c'è qualcuno, è rimasto qualcuno. Non vi arrabbiate. Ma no, io non mi arrabbio, fra, no, e lui la pensa così, io la penso diversamente, poi. Vattene di là, Decca, vattene di là, vai, vai là che se c'è nella cucina tua, vai che qua, vai da lì, ci sono i capi, vattene, cazzo, io che è un cane, ragazzi, sono aiato, non è un cane. Vabbè, uno ha il diritto di pensarla come vuole, è ovvio, e vanno rispettate, le opinioni degli altri vanno anche rispettate. Comunque ciao Antonio, se te ne stai andando, ciao. Beh, vabbè, io per esempio quando sono andato dal medico ho preso ne una, mica mi ha detto di prendere questa e questa, ho detto guardi passa così, ho preso questa medicina per la gola, non mi ha detto nulla, e poi mi ha controllato il problema, c'era mal di gola un bel forte, dicevo questo aft, e niente, me lo sono curato così, e ti posso dire che sto bene, io ho iniziato con un po' di tosse, mifra. Ora mi arriva, inizia, sai, colpi, la tosse a colpi, poi arriva così e non ti senti bene. Da lì è iniziato, poi l'indomani, che era di domenica, e mal di gola. Poi la sera ho iniziato ad avere anche febbre. Guarda, io giovedì mattina ho fatto il terzo vaccino, E poi sono rientrato a casa, non avevo niente, proprio stavo bene, per quanto. Probabilmente io dal caldo al freddo sono uscito in camicia qui in terrazza, sono uscito per non so per che cosa, ho preso un colpo d'aria e mi è giunta l'influenza, raffreddore, queste cose qua, no, però non c'ho altro, solo un raffreddore. Dici che hai fatto il vaccino, ma darmi noi il vaccino, questa è influenza, punto. Ma l'hai fatto qua a Sassari, al monte? Sì, è lì a Sassari, a Cosio, in via Marghilutti. Non hai visto la mia antenna, non ci ho fatto caso, no? Di fronte abito io. No, non ci ho fatto bene, pissendo io. Lì, di fronte a Cosio, all'ospedaletto, sì. Di fronte al lupo, sì, faccio le scale, sono arrivato io. Non ci ho pensato, no. Infatti sono andato lì, ci devo andare di nuovo il 17, lunedì ci devo venire, devo accompagnare mia moglie, devo fare mia moglie anche. Tu quando arrivi lì alle spalle tue, girati quelle casette, ci vedi la mia antenna, vedi? Già ci guardo a vedere. Ciao! Cosa vuoi, drogato? Cosa vuoi? Visto che ti ho visto sotto il ponte con uno spinello infilato nel braccio, hai capito? Bella bego, cappellino. Condusa. No, non era con uno spinello, era con un nido. Ciao, bravo, cosa era? Con un nero era. Non l'ho capito, cosa ha detto? Con un nero. Ah, con un nido. Lì c'è peggio. Cappa. Scusate il telefono. Niente, Vanni Utrabizzoni, Vanni. A me ancora non mi biazzi dallo. Che buona comunità. Kappa, Natalino Alfa 1. Sa chi? Che cazzo, se te vinta, tu che ordinava la Fainè, mamma. Perché a casa me la porta? Se via usa è buona. a casa ve la portano. Non so se mi sa che la prende in via Nurra, sì, mi fa chiamare, la porta a casa, allora. Ah, da Zizzo, da figlio di Zizzo, da. In via Nurra viene solo uno. Che va. Solo lavora, porca paletta. Non lavora mai. Allora, trumbecco di saffarina, sai cos'è? Buona è buona, è troppo olio mettono. Però è buona. E buona la pazia, quando era Ruzio, quando era Zizzo, proprio in via Usai, erano in via Usai quelli. Io li ho conosciuti in via Usai. E la facevano buona veramente, quando c'era signor Francesco, lo zio. Sì, ma quando è troppo uso non è buona. Sto macchevole, capito? Sto macchevole. A me mi piace quella punta secca, vedi, aggrottata, è fina fina, grossa non mi piace. Ma quelli di via Petrumica dici? Come? Ho detto, quelli di via Petrumica dici? In via Nurra è Zizzo, l'unedì di signor Francesco è Zizzo. Però quando era in via Usai la pazia Nivona, quando era il signor Francesco. Questa fa in lei, anche la prima mia di date, beh. Andate via? Via, beh, Cristian. Oh, Cristian, dove sei? In modo che possiamo parlare in due, c'è tipo telefonata, mi hai capito? Ovvio. Come già un pezzo di fai niente. E dove l'hai presa? Via Nurra, cosa ci vuole? Non mi piace, siete troppo i cicci. Poi c'è quelle cipolle o un'altra musica. Diciamo che ci metti di più a digerirla con le cipolle, comunque è più buona. Sì, ecco, le cipolle è vicino, anche se è buona normale, però. Salsiccia e cipolla è la morte sua, secondo me. Però salsiccia buona, non salsiccia scadente. Ehi, no, qua facciamo di gente, ti fai chi sono. Scappa. No, io sono entrato tardi, buco, sono andato a prendere roba per predisporre per piazzare di polo, un sacco di carrucco, le cavie, i cucchilli, eccetera. Avevo già qualcosa, però sono andato da Bricco, me ne ho preso quello che mi mancava. No, le antenne. Marco, tramite Marco, era con l'antenna di Claudio, quel dipolo enorme, sarà quant'è di lunghezza, una trentina di metri di antenna, di filare, dai, e bisogna portarla su dove c'ho la Mantova, ho preso una ralla, devo salire su, mi devo arrampicare, non è semplice, e poi lì metto una carrucola in modo che lo puoi sollevare su, il dipolo, ho preso due pali nuovi, e stamattina li ho piazzati in modo che si possa tirare con una cima, lo allunghi e lo tiri bene questa cosa. Tanto lì a te non ti rompo le balle nessuno, giusto? Sì, assolutamente, la mia famiglia tanto quella. Vabbè, piano piano, dai. E poi ci fanno piano piano. fa un morso. Oh, yeah. E la radio come sei messo? Ti accendi? Sì. Sì, la radio già c'ho, vabbè, il 440 lo sto usando qua. Poi c'avevo, l'anno scorso mi sono comprato, mi è capitata una bella occasione, un 940, era il mio sogno, lo conosci il 940? No. Era quello grande grande, il topo della Kenwood, parliamo di 20 anni fa. E tipo il 440 però è il doppio, di altezza e di lunghezza e di larghezza. E c'era l'alimentatore interno, una radio, una bomba, bellissima, proprio enorme. E poi mi è capitata un'altra occasione, quando la primavera scorsa, di un TS 2000 a prezzo proprio quasi di regalo, nel senso che poi mi è costato anche di meno perché ho fatto uno scambio per cui quella parte dei soldi li ho compensati per prendere cose. Ed è una radio che ti fa tutto, c'ha le HF, le V, le U e i 50 MHz, e più volendo, ma me ne ha fatto nulla, i 1200 puoi mettere, che non mi interessano, anche se c'ho l'antenna, che poi mi sono comprato un'antenna, la 7000 della Diamond, che è lo stesso una trimanda, fa le V, le U e le 1200. Mi faccio ascoltare perché ho aperto anche l'imbara, non pensavo che arrivassi, invece con l'antenna, considerando che non ho altezza altissima, il cavo non è di qualità eccelsa, infatti io ho preso anche il cavo nuovo, un cavo di qualità, tutto i consigli me li sta dando Marco, io seguo quello che mi dice il maestro e lui quello che mi guida, e poi anche gli altri, Fabrizio, Claudio, per ognuno diciamo nel suo campo mi danno le proprie informazioni, Gianfranco a parte dei computer, tutti i sistemi di decifrazione di cose digitali eccetera, Gianfranco è molto pratico perché lui fa molto radioascolto, e poi tutto di questione di antenne Marco mi aiuta, lui è specialista e infatti mi ha dato tutti i consigli, con l'antenna che ho con la filare l'aveva costruita lui, ce l'aveva prima lui e poi l'aveva data Claudio, ha detto va benissimo, c'è da fare qualche piccola modifica perché i cavi li saldiamo direttamente anziché mettere il PL, ha detto che non fa, bisogna saldare sempre in modo che ci sia meno perdita possibile, per cui io sto seguendo le direttive di lui, passi piccoli ma giusti, senza gurri, perché c'è vari, a parte ci vogliono i soldi per comprarle certe cose, non ne ho da buttare, è un divertimento, per cui prendo le cose che mi servono essenziali e faccio quello che mi dicono gli esperti. Robe che non piano, dai. Non si può. O ti puoi mangiare una mucca o un mosso, dai. E non piano, dai, si fanno le cose. Allora io vi ascolto, ma voglia. Io vi ascolto. È un casino, sembra così, ma ci vogliono un bel di soldi, non è, cioè oggi così, poi domani devi cambiare progetto, e devi mettere quella, e devi mettere quell'altra, mai poi adesso, mai ti metterai una direttiva tipo quella di Marco. Non è che fosse stato Antonio, tanto tu sei. E io sono. E che lupi mannari ci sono, tanto vai lupi. Tu sempre mi sovramuturi, bravo, bravo. No, siete proprio sbaglio. Adesso mi metto l'amplificatore e poi è un casino, Beh, ti metti. Esce un casino, non parli né io né tu. Sicuro sì. Attenzione che non lo può fare sia io, puro. Ma 100 watt bastano. Sì, ma io non ando contento un matto, non ti preoccupare. Sì, se ce l'ho che ti matano, 100 watt per darti fastidio. Vai, cazzo, ho schiacciato per sbaglio. Ma dico, io con 100 watt do fastidio. Ma scommessa, aiuto, l'ho già fatto. L'ho già fatto. Fate da bravi. Già lo so che dai fastidio, ma pure io ce ne pongo. Se ne pongo 3-400, voglio vedere che fa bella da voi. Io sono qua, cioè conservato, lo sai, non è che. Comunque, io l'avevo fatto tempo, no adesso, l'ho fatto qualche tempo fa, mi. Poi l'avevo detto in frequenza, ma sono io, avevo l'amplificatore di Luigi, e poi non è a 100 watt era di più. Se me l'ha dato, tu usatelo lui, va a volare. Picciavo! Silenzio totale. Aspettate che c'è gente che vuole entrare, avanti che vuole entrare. Sera. Aspetta Lu, avanti, chi sei? Cristian. Ciao Cristian. Ah, bravo Luca, pure tu me, non so mutare nessuno. Ma so se l'avete vista, si vede da un chilometro l'antenna sua, e Luca è quello che mi arriva più forte, parliamo di quelli più lontani, e arriva quasi 9.30 Luca, 9.25 arriva, e con i picchi a 9.30 con potenze limitate, se vuoi 100 watt uguale, faccia a tutti. Posso immaginare? Tu Cristian sei quasi 9, però sei basso di radio. Lo so, perché non ho grosso, ho problema le antenne, devo controllarle. Ciao, come vi arriva a voi Cristian, Luca e Antonio? A me 9:10 e a te Luca? Luca sei spento. Ma Cristian, ma sei in movimento o sei a casa? No, sono fermo verso Sant'Andrea Pisa, Sant'Orsola, non ho capito dove hai detto, dove sei? Sono a Sant'Orsola. Ciao, vediamo se è entrato Luca. Cioè il QRM 8 oggi, cazzo, non se ne capisce niente. Infatti Cristian di poco lo supera. Tu mi ascolti bene Cristian? Sempre bene ascolto io, bello, pulito, perfetto. Ciao. La crosta nera perché l'altra antenna ha un problema, non so perché. Scusatemi un attimo, mi devo allontanare, scusate se mi hanno chiamato. Ehi, capito, caro Antonio? Ho capito, non è che sei arrabbiato Luca? No, mi guarda, tu so, adesso c'è la frutta nera perché la LEM non mi può uscire di segnale, non so perché. C'è qualcosa, c'è. È molto probabile, lo stilo però è. C'è qualcosa che non va, non può essere la carica, non lo stilo. Ma la carica c'è la farsi friggere. Beh, se non esce secondo me lo zio ti può dare qualche polizia azionale, ma niente di più. Beh, se non è preoccupare giù, ma non ci vuole. Gappa! È proprio la pagata, proprio, è andata a piangere. Vabbè, pazienza, va. È andata a 40 euro da fusello, non è che l'ho pagata 20 euro, Andiamo, vabbè. Via. Non costa neanche poco, no? Vuol dire che ho usato la camionetta e prendo il video sulla cappotta. No, praticamente è partita qualcosa nella carica, quella là. È molto probabile. Cappa. La sua spesa sarà una bella 2000 euro sulla cappotta e base magnetica e si viaggia, dai. C'è nessuno? Avanti! Buonasera! Buonasera! All'ombra! E allora? Non stavo ascoltando, l'ho appena acceso, quindi non so neanche di che cosa stavate chiacchierando. Ora di che, guarda? Ma tu non vai crescendo bene ora? Ma cosa ne so, l'ho posta sulla cappotta, e poi te la carica della LEM. Ma hai cambiato lo stilo? Sì, sì, no, la posta è la completa adesso, con la base magnetica. Adesso vai bene. È da sperare, però sono questa per adesso. La LEM si è finita la carica. Va bene ora, sì. La radio è bella, forte, amplificata con la panna di eco. Vabbè, quello è buono. Sì, sì, va bene. No, io pensavo che era qualcosa del mic, perché non stava andando bene stamattina. Toglimi una curiosità, ma hai messo lo filo in acciaio? No, ho messo lo filo in acciaio, c'è lo filo della costanera. Vabbè, non hai cambiato, scusa, l'antenna. Sì, ho messo lo filo in acciaio e non esce, niente. Non è che è partita la carica dall'interno allora? È molto probabile che sia tutta l'antenna. Vorrò soldato. Vabbè, guarda, da 1 a 10 mi prendo il 2001, faccio pure la base prossima. Ma non va bene con la basetta che hai tu però. Con la basetta la prendo, scusa, completa. Ah, allora sì. Ho fatto prima. Se non lo sa ci sei, ho un po' di pezzi di punteggio che ti devo vedere ancora. Di cosa? Ricordami. Ci sarò, ma guarda, sarò, non lo so, sarò un casino impegnato domani. Vabbè, se prendi sto nel prossimo, non c'è problema, dai. Se vuoi prendere questo mio gioco che metto sui punteggi, i tavoloni. Ah, sì. Ne avrò un 5-6 pezzi anche per andare a casa. E vedi che te li porto gli appetti tanto. Non ti preoccupare, adesso li andiamo a fare qui, no, da bruciare catene. Allora, la catena già affidata io la tua sega, perché gli ho fatto un niente la sega lei anche. Dopo tagliare, stai bruciando la legna. Va bene. E poi Antonio? Ah, se vuoi prendere il cartello, c'è anche la catena elettrica, se ti serve. No, ce l'ho qui, uso per la benzina però. Aspetta un attimo. Oggi abbiamo mangiato bene, oggi. Sì, a te. Capa, oggi i giovani con la salsiccia freschi di sabata brecca e seadas. Andiamo, andiamo. Qualcosa, ma per carità, capa, a proposito di una cosa, sì. Da, ti devo chiedere una cosa a Tino, ma da te la chiedo in privato, dai. Chiamami, non c'è il mio numero di telefono. Sì, che ce l'hai? Capa, chiamami, ce l'ho qua al telefono, dimmi. Ah, che ti sì, quali sono di me? Ah? Ti chiamo io. Quali sono di... Aspetta, Cris, non ho capito, cos'è? Eccomi, sono di nuovo qua. Cosa è successo? Mi ha chiamato Antonio, stiamo parlando di una certa cosa. Come volevo, ma noi lui, di là, è gannà. L'importante è che ci sia la salute e quello che si ha si deve apprezzare, poi il resto viene da sé. Guarda, io ho poco, ma con poco l'apprezzo come mi respiro. Allora, noi qui, quell'altro pezzetto che abbiamo lasciato stamattina, è entrato a casa, neanche visto l'hanno. Ah, dimmi! Quel pezzo che è entrato a casa, che abbiamo lasciato noi stamattina, è entrato a casa, neanche visto l'hanno. Sì, possiamo andare. Ma guarda tu un po', Cosa? Non ho capito, no? Ma sono la voce, l'ho detto? Come sono dalle mie parti? Ma sì, adesso sei quasi sette. Ah, ho capito. Va bene, dai, io vi saluto e ci sentiamo, che devo fare roba, ok? Ehi, a tu, ce lo ascoltiamo, dai, ciao, ciao. Buona serata. Ehi, buona serata a tutti. Andate, ciao, ciao. Ormai siete divertiti a tagliare? Cristian, sì, io un bel basso sì adesso, dove cavolo ti sei intanato? Santiago 3, Radio 2. Sì. Un bel basso sì, E a Pasqua di mezzo agli alberi, caro. Ah, allora sì, sei in città, insomma, un po' lunga, però ti devi mettere un aiutino, tu se no non ci arrivi. Sì, quasi non ti ascolto qui, Vabbè, qui, rimango in Quirix, faccio due cose al computer, abbasso il volume, dai, al limite, se no mi disturba le altre cose. Ci si ascolta? Dai, a più tardi magari. Ehi, dai, poi rispondi per te adesso. Ciao, Cri, ciao. Alfa Sierra Sassa di Papa Tango, Orango Tango, tutte cose, buonasera. Ciao Eugenio. E allora, muscolo, come va? Tutto bene. Stiamo affettando? Buonasera a tutti, chi c'è? Ma c'era Cristian e Antonio, solo che Antonio è andato in Corrix, anche in Corretti. Invece Cristian è in giro per la città, ma faccio fatica a ascoltarlo. Hai sentito oggi? Certo che ti ho sentito, no, stavo leggendo una cosa di lavoro. Andate. Va bene. Pensavo che non ero uscito io, ho detto no, farà. Ma io a Cristian lo sento borbottare molte volte, ma non riesco a sentirlo. Io ci vado dietro a casa. Vabbè, lui è con una fusta nera, è un baracchino normale in macchina, quindi secondo dove si trova faccio fatica anche io a sentirlo. Già avete anche le vitamine, purtroppo. Come Giovanna, cosa sarà? Riposarti, cosa vuoi dire? Che io è tanto affetto. Bravo, tu dici più affettelli. No, guarda, l'ho assaggiata stamattina con Cristian. A vedere se era in tempo la giusta. Allora, 22-23 io sono di là, eh. Se vuoi venire, Allora, il 21, il 23, magari il 23 mio figlio ha il vaccino. Io ce l'ho il 28, insomma, siamo un po' così. Quindi non penso di uscire. Sì, 21. Insomma, non ci compriamo mai, ha già compreso. Sì, già capiterà. Domani, vabbè, oggi sei qua, quindi non sei uscito. Poi come finisco la terrena me ne faccio su un licolino, parlo appunto Maragnani, e poi me ne scendo la sera che devo lavorare. E come vai? Buongiorno. Come? Aspetta, appena finisci la terrena fai un licolino. E quanto ci stai? Oggi tutto il giorno. Quando faccio la quale 8:30, no? Per me. Ah, ti fai la mattata e poi rientri domani. No, domani mattina, come esco in Tirrenia? Come esco la Tirrenia? Uscivo 8:30 alle 8:15, 8:30. Come faccio acqua a 9:15, va bene. Faccio tutta la mattinata, dopo pranzo, fino alle 5, 5 e mezza, anche alle 6. Tanto domani si entra alle 7, 7 e mezza. Ah, ho capito, ti passo la giornata lì e ciccia, dai. Andare. Sto via. Sì, non è proprio da domani, va, per passare la domenica, se no sono sempre cavalieri, lui, va. Ho capito, vabbè, va. Non so neanche come il mare, ma penso che sia calmo. Bonaccia, c'è bonaccia, capito, non c'è mare brutto. Sono entrato lì da Nicolino a farmi un giro con la maschera, caspita, ce n'è di movimento, comunque. Dai, ci presta come posto andare in giro lì a fare qualche colpo. No, vabbè, sono entrato così, giusto a farmi un giretto in mezzo agli scogli che ci sono lì, appena scendi dalla spiaggia, quelli che ci sono sulla sinistra. Insomma, ho visto un po' di movimento, poi una volta abbiamo buttato le canne giusto così, per gioco, abbiamo preso due bei salagoni. Dici, ma con la muta dici, con la canna? Allora, una volta sono entrato, no, in effetti, una volta sono entrato così solo con la maschera, e l'altra volta c'era mare brutto e ho gettato due canne così, giusto per passare una coretta. E mia cognata aveva preso un bel salago grande e io un po' più piccolo. Non ho capito. A me è appassionata la pesca con la canna. Ui. Non manco neanche il coso. Con fucile, con non agio pazienza. Va bene, forse il mare a me mi ha stufato. Sono molto più per la piscina. Vabbè, oggi è come tutte le cose, quando ce l'hai a casa le eviti, quando non le hai le cerchi. Io forse l'ho giocato brutto, non lo so, continuo a farne perché lavoro sul mare, lo vedo in tutte le condizioni, è un casino. Questo fatto, la piscina è bella, si sdraio, bellone, non ti sporchi, non c'è sabbia, non c'è niente. Scusa, oggi devo mollare un attimino che mi sono dimenticato l'acqua aperta e devo uscire fuori a staccare il pozzo. Vai tranquillo, vai. Arrivando subito. Ecco qua. No, mi sono dimenticato, infatti c'era il troppo pieno. Ti ha lagato mezza campagna, comunque. Capita molto spesso questa cosa. Come mai non hai un galleggiante che ti blocchi tutto? Stai innescando. Allora, diciamo la verità che avevo il riempimento automatico con le sondine a balle varie, che però succedeva che si metteva in funzione quando la cisterna era diciamo più o meno a metà, no? E quindi si accendeva quando lo pareva le piaceva a lui, tipo che ne so, ora di punta, durante il giorno giorni settimanali, invece così, siccome so che mi dura quasi tutta la settimana, io l'accendo o dopo le 7 che pago di meno, oppure sabato e domenica, capito? Quindi devo eliminare quelle sondine lì, a quel punto ho dovuto eliminare anche il galleggiante. Ho capito. Poi adesso tra un po' da mangiare, mi faccio una voglia bella, no? Ah, mi mangio un microfono. No, lo fare che sennò dopo è difficile trovarne di quel tipo lì. Cosa, è difficile trovare l'MC60? No, non sono tutti che lo danno, chi ce l'ha se lo tiene, oppure se lo vende lo vende caro. Te lo do io, aio, dai, ne ho fatto sì. Manda Vannino, ciao, buonasera. Ciao, buonasera, chi è che c'è? Siamo 4 comunque. Se ce la vuoi avere il tunnel più 2 o il tunnel più 3? Più il tunnel più 2 perché mi piacciono le cose anni 50. Sarei disposto anche a fare il cambio. Vanni, guarda che non mi interessa a me, basta che sia in ottime condizioni. Se non vuoi dentro la scatola bisogna andare a controllo nuovo. Normalmente il microfono sta qua sempre qualche fesseria. Devo vedere gli altri che ho dentro una scatola. Comunque sono buoni, si presentano bella, non sono messi male come tutti. Come fate a prendere un microfono, scusate, comunque buonasera a tutti, a chiedere un microfono che ci sei stata che ha 20 anni questo microfono. Cioè, mai siete un medico che siete buoni. Dentro la scatola, bisogna controllare se sono buoni. No, perché se tu vedi cosa che ho io, avrà 20 anni o 30 anni pure ed è immacolato, penso che ti dica. E ti dirò la verità, che questo è quello che ha l'alberello anche, e ce l'ha anche Claudio così. E ha ragione, vai, quante volte l'ha usata, capito voi? Se ci metti il dito sopra, normalmente in un day c'è anche l'alone del dito dentro, è così che funziona. Poi, non lo so, io ne ho qualcuno, 3 o 4 mi pare che ne ha, non so manco in che condizione sia, perché sono dentro qualcosa che si dà parte. E quindi sono nuovi, così è? Allora, il mio è nuovo, sì. Ti mando le foto? No, ma ci credo, ma anche io questo qua è il primo che l'ho avuto, Vanni, è lo stesso, non è che, sì, hai ragione tu, se ci metti il dito un goccino di cosa si va a svanire, per carità, ma l'importante è che non sia ammaccato, che non sia graffiato, insomma, quelle cose sono normali, capito, già va bene, Vanni. Comunque ti devo chiamare, per vedere se qualche radiolina da fare fuori. Vabbè, la mamma mia, non la battuta, no? Un bel volte si parla di radio, ma che non si chiama con radio, ma andate a comprare nuove. Che discorso ho fatto, immacolata, la mia è un sì, mamma, quante ce ne saranno? L'80% che vai con me c'hanno sempre qualche fesseria, normale, dopo tanti anni naturalmente parlo così. Vabbè, ognuno poi ragiona la propria testa. Ok. Oh, bene, sì, già sta uscendo. Chanda Bex. Beh, tutti, no, è già usato. Non sono uno che sono usato. Quindi è così. Non lo so, sinceramente no, non mi ricordo, ma anche in che condizioni era. Vabbè, ma quando è che mi inviti a vedere la tua stazione? Così, quello che mi piace me lo regali. Il tunnel più 2, chi mi dà il tunnel più 2 io da l'MC60. Lascia perdere Eugenio, non fare quella fregata. È troppo bello, mi piace troppo, anni 50, bellissimo. Ma futti dinni. Guarda che ti ho guardato una foto. Vabbè, saranno anche lui, ma poi non ti cercare la radio, Foto. Cos'è Eugenio? Ti ho guardato una foto. Esce, vedi. Ho detto, magari è bello, cioè ti piace a te, però poi non cerca la radio, Cioè non cerca la radio, esce fortissimo, esce. Vabbè, siamo dici tu. Ma ancora non ha capito questo qua, buh. Lascia perdere oggi la fottidina. Comunque non è arrivata la foto. Ancora no. È possibile. Se me l'aveva consegnata. Allora io adesso mi è arrivato, mi esce adesso. Esce a vedere, sì, e andrà a Bex. Guarda com'è il mio, guarda, io le cose tengo bene, perfette. Vabbè, però c'è l'ombra dove appoggi il dito, quindi non riesco a vedere se è usurato. Ma si presenta bene, va, diciamo bene. Se tu lo togli da lì, lo prendi in mano, ti fa una canzone, perché sembra di quei microfoni che si usano per cantare. Allarga la foto, già lo vedo che è il giurato. C'è quell'ombra vicino al down, che è il dito, però ne esce, cioè, adesso non è fatta. Perché io lo pulisco col coso, con quell'affare che pulisco con gli occhiali. Ho capito, ho capito. No, il mio invece, vedi dove c'è scritto l'arca, a fianco all'alberino. Via. Già va bene. Capito, vai, Vannino, quando è che mi dici a vedere la tua stazione? Ormai non c'è più niente. Buonanotte allora. Comunque se vuoi vedere domani mattina sono qua. Io non so neanche dove abiti, quindi. Ma tu mi devi dire se vieni. Perché mi vuoi fare una sorpresa? No, visto non faccio sorpresa a nessuno perché non mi interessa, le sorprese sono dei bambini. Possiamo mandarvi adesso un pacco, un fiocco, con dentro qualcosa di importante, di bello. Vabbè. È un pacco sì, ma non so di che cosa sia, però non so se ci sono un pacco, va bene. Ma vedo a me. E qua ci sono bambini, eh? Ah, un pacco, ma sei un letto, una busta, che è questo? Maledetto, perché il pacco di Natale è già passato, capito? Beh, signori, dai, che anche io adesso mi direziono verso la cucina per vedere se c'è qualche fasciglio di tavolo, anche io ogni tanto. Ma qua mai oggi non c'è nessuno. Allora, sorprendimi, siete tutti quanti rotichelli. Ma vabbè, in altre bande c'è altra gente, quindi già fuori due. E quindi gli altri stanno mangiando, un altro era in macchina a zonzo, un altro era a ricovero. Mamma mia, eccola ci si. Che tempo fa a Sorso lì, a Sorso City? No. C'è ancora il sole a Sorso City? Aspettando, ma non vedi chi? Aspettando che intorno, i mutandini. Allora mi devo trasferire a Sorso. Vabbè signori, vi saluto, vai. E ci sentiamo, Vanni. Ciao Luigi, alla prossima. Riprendi. Ciao, ti sto fatto alla prossima, vai, già ci sentiamo. Ciao, una buona masticata. E allora, ciao. Beh, mi stacco anche io, così mi faccio lavoro. Ciao Vanni, ci sentiamo, ciao. Il mio amore, nonostante qualche disappore, se ti lascio in faccia i segni del Salvatore, so che capirai. Oh, beh, signori, a favore a tutti quanti, è stato a corto. Sentiamo domani. Ciao a tutti e buona cena, ciao. Quando ti esecutivo per me, ciao, sto chiedendo, ciao a tutti, ciao. Oh, come è? Secure X, oh yeah. Hola.